potatv.it. Oltre lo specchio, dentro la mente. Scienza, affordance e vita quotidiana con il tuo cane. Benvenuti in una nuova prospettiva della cinofilia moderna. scuolaformazionecinofila.it. L'hacker della realtà, la triade della percezione. Allora, c'è una domanda che credo ci siamo fatti tutti almeno una volta nella vita. Perché una passeggiata di mezz'ora tra le vetrine del centro ci lascia, cioè spesso molto più esausti, di un'escursione di 3 ore in mezzo alla natura? È una bellissima domanda. E, spoiler, non è per colpa dello smog. Esatto. Immaginiamo per un attimo di trovarci a camminare in un bosco. Una tranquillissima domenica mattina. E a un certo punto, lungo il sentiero, c'è un enorme tronco caduto. Un'immagine banalissima, insomma. La più innocua possibile, chiaro. È solo un pezzo di legno ricoperto di muschio. Eppure, il modo in cui la nostra mente processa quel tronco nasconde incredibilmente il segreto biologico del perché la vita moderna ci fa sentire così perennemente svuotati. Praticamente privi di energia alla fine di ogni singola giornata. È un punto di partenza perfetto, guarda, perché quel tronco nel bosco non è mai soltanto un oggetto fisico. No. No. Per la nostra mente rappresenta un test costante. Rivela come il nostro sistema nervoso interagisce con l'ambiente circostante. Stiamo parlando di un meccanismo invisibile, incessante, che opera completamente al di sotto della nostra consapevolezza razionale. E proprio per decodificare questo meccanismo, per questo nostro approfondimento di oggi, mi sono immersa in un saggio davvero, ma davvero affascinante. Si intitola L'hacker della realtà, la triade della percezione. Testo interessantissimo. Scritto da Michele Amico, che tra l'altro di professione fa l'educatore e il formatore cinofilo. E l'omissione di questa nostra chiacchierata è capire come smettere di essere vittime passive dello stress e diventare dei veri hacker della nostra realtà. Che è una promessa bella grossa. Assolutamente, però devo ammettere che la professione dell'autore mi ha subito incuriosita. Cioè, cosa c'entra un educatore cinofilo con le neuroscienze umane e lo stress metropolitano? C'entra moltissimo, in realtà. Chi lavora tutti i giorni con il comportamento animale sviluppa un occhio straordinario per le dinamiche non verbali, per l'istinto puro, diciamo. Ah, chiaro, guarda come si muovono. Esatto. Osserva costantemente come un corpo si muove e reagisce in uno spazio fisico senza il filtro del linguaggio o del ragionamento astratto. Michele Amico prende questa osservazione pratica, viscerale direi, e la unisce alla neurobiologia. Cioè ci fa capire che noi esseri umani ci illudiamo di essere creature puramente logiche. Esattamente. Ma la nostra interazione con lo spazio è prima di tutto animale, biologica. Che cambia un po' tutte le carte in tavola. Ma per apprezzare davvero il salto logico che fa questo saggio, dobbiamo fare un passo indietro, da dove partivamo. Ho letto che per decenni la scienza ha avuto una visione molto più meccanica del nostro rapporto con gli oggetti, giusto? Sì, assolutamente. Il libro parla diffusamente degli anni 70 e di un certo James J. Gibson, che è il padre della psicologia ecologica. Ok. Gibson ha fondamentalmente scritto le regole del gioco. E attenzione, il saggio non vuole affatto demolire le sue scoperte. Anzi, lo considera lo scopritore dell'alfabeto, diciamo, dell'interazione uomo-ambiente. Però Gibson aveva un'idea specifica, il cosiddetto realismo rigido, basato su un concetto che... Sull'affordance. Esatto, l'affordance, che oggi è un termine famosissimo anche nel design. Certo, l'idea di base è che l'ambiente sia un catalizzatore di verità fisiche immutabili. Cioè che gli oggetti abbiano delle funzioni intrinseche che ci comunicano visivamente. Precisamente. Secondo questa visione di Gibson, una superficie piatta, solida, posta a mezzo metro da terra, è oggettivamente una seduta. È un'informazione fisica, presente nel mondo. Noi siamo solo delle antenne che captano questa informazione. Ma scusa, frena un attimo. Una superficie piatta è oggettivamente una sedia naturale. Voglio dire, se piove, se c'è il sole, se io sono triste o euforica, quel sasso piatto rimane un sasso su cui ci si può sedere. Fisicamente parlando, sì. E allora non ha senso dire il contrario. In un certo senso Gibson ha ragione, no? Dal punto di vista materico, nessuno nega che la gravità e la solidità del sasso rimangano quelle. ma la genialità di Michele Amico sta nel guardare la cosa da un'angolazione neurologica, non architettonica. Ok, spiegami meglio. Amico osserva che, per il realismo rigido di Gibson, manca completamente l'individuo. Manca il suo carico emotivo, la sua necessità in quel momento preciso. Ah, quindi è come se Gibson vedesse il mondo come un software in, diciamo, sola lettura. Ci aggiriamo in un ambiente dove tutto ha un'etichetta preimpostata e noi non possiamo alterare il codice. Un tronco e una sedia. Fine della storia. È un'immagine che rende benissimo l'idea. Amico invece propone quello che lui definisce un incontro dinamico. La realtà non è in sola lettura, ma è un codice open source. Wow, open source! Sì. L'oggetto non è un contenitore statico, ma diventa una semplice disponibilità ambientale. È un potenziale grezzo che aspetta qualcuno che gli dia un senso. Quindi, tornando al nostro tronco caduto nel bosco, la sua natura cambia istantaneamente in base a chi lo incontra. Radicalmente. Se stai camminando da ore e hai le gambe a pezzi, quel tronco è un invito a riposare. Lo vedi e pensi a sederti. Ma se a passeggiare è un bambino pieno di energia, quel tronco smette proprio di essere una seduta. Esatto. Si trasforma in una possibilità di gioco. Un ponte da attraversare in equilibrio, un ostacolo da saltare. Quindi la funzione viene plasmata dal nostro stato d'animo. Diventiamo noi gli hacker che riscrivono la realtà. Noi. Nel momento esatto in cui ne abbiamo bisogno. Ma fisicamente, come avviene? Cioè, immagino ci sia un divario microscopico tra quando gli occhi registrano una forma e quando il cervello decide come usarla. C'è. Ed è qui che il libro entra in una meccanica di precisione pazzesca. Propone un modello che chiama la triade della consapevolezza. Tre stadi che avvengono in frazioni di secondo. Ok, esploriamo questi tre stadi. C'è un esempio nel libro che mi ha colpita tantissimo. Quello della maniglia della porta. Esempio perfetto. Allora, il primo stadio abbiamo detto che è la disponibilità ambientale. La fisica nuda e cruda. La maniglia è di metallo, è ricurva, è solida. Questa realtà esiste anche in una stanza buia e vuota. Fin qui logico. La materia è in attesa di essere percepita. Ma al secondo stadio le cose si fanno strane. Il libro lo chiama l'invito o anche il magnetismo. E questo, guarda, è il passaggio cruciale per capire lo stress di cui parlavamo all'inizio. Quando tu guardi quella maniglia, la tua percezione non è una macchina fotografica passiva. No. No. Il cervello elabora la forma e genera all'istante un comando motorio. Riconosce che è compatibile con la mano umana e prepara il corpo all'azione. È un vero e proprio magnetismo inevitabile. Aspetta, aspetta. Vuol dire che se sto camminando distratta in un corridoio d'albergo, pensando ai fatti miei, e vedo una maniglia con la coda dell'occhio. Il tuo cervello si sta preparando ad afferrarla. Cioè, manda segnali ai muscoli del braccio, anche se non voglio aprire quella porta? Esattamente. Per i nostri antenati era vitale reagire subito alle opportunità o ai pericoli. Vedere significa simulare l'azione. E se tu non vuoi aprire la porta, il tuo cervello deve fare un secondo sforzo. Quale sforzo? Deve inibire quel comando motorio. Deve dire al tuo braccio no, fermo, non abbassare quella maniglia. Incredibile! Un lavoro invisibile. E questo ci porta al terzo stadio della triade. La possibilità, l'atto creativo. È qui che l'hacker prende il controllo, giusto? Certo. Immagina di avere le mani piene di borse e una giacca pesante. Sei davanti alla porta. Chiusa quella maniglia. Quella maniglia non è più qualcosa da abbassare. Diventa un gancio. Appendo la giacca sulla maniglia per liberarmi le mani. Esatto. Hai appena acchiarato la realtà. L'invito rigido ambientale è stato piegato dalla tua creatività e dal tuo bisogno. Che è una plasticità affascinante. Però voglio tornare un secondo al discorso dell'inibizione, del frenare quel comando motorio. Vai. Perché se processare la forma di una maniglia in un corridoio richiede energia, per bloccare l'azione, cosa succede quando moltiplichiamo questa roba su scala metropolitana? È qui la vera critica sociale del saggio. È l'origine biologica dello stress moderno. Amico la chiama la prigione degli inviti. Ah, la prigione degli inviti? Sì, perché il problema della città non è solo il traffico o il rumore. È il bombardamento percettivo, studiato a tavolino. Pensiamo a una via commerciale in centro. Vetrine, schermi, porte scorrevoli, prodotti esposti. Ognuno di questi elementi è stato progettato dal marketing per agganciare i nostri neuroni, nello specifico quelli che le neuroscienze chiamano neuroni canonici. Frena, neuroni canonici. Che cosa sono di preciso? Sono una classe di neuroni motori che si attivano non solo quando afferriamo un oggetto, ma anche quando ci limitiamo a guardarlo. Ah, solo a guardarlo. Solo a guardarlo. Basta che un oggetto sia visibile e il nostro cervello inizia a simulare fisicamente di prenderlo. Quindi, fammi capire. Io passeggio in centro, sono convinta di fare solo window shopping, no? Guardo le vetrine, so che non comprerò nulla. La mia mente logica è tranquillissima. E invece il tuo sistema nervoso sta combattendo una guerra, per ogni singola maniglia di negozio, ogni prodotto, ogni pulsante luminoso che vedi. Il mio cervello processa l'invito e simula l'azione. Poi deve spendere energia metabolica reale, cioè glucosio puro, per bloccare quell'azione. Centinaia di volte al minuto. È tipo, cioè mi fa pensare a quando è il browser del computer pieno di schede aperte, no? E su ognuna parte in automatico un video pubblicitario col volume a palla e tu devi passare il tempo a cliccare pausa su ogni singola scheda, secondo dopo secondo. È un'analogia perfetta. Uno spreco di energia pazzesco. E questa energia consumata per chiudere continuamente quelle schede è il motivo per cui dopo un'ora in centro ci sentiamo annebbiati. Quella spossatezza totale. Esatto. Non è fatica fisica, è un esaurimento neurologico profondo. L'architettura del consumo ci ha letteralmente hackerato. Ma questo apre una questione immensa, quasi filosofica, direi. Noi ci crediamo creature super razionali. Penso, dunque sono, no? La logica comanda il corpo. E invece? Da come me la racconti, sembra che avvenga l'opposto. Chi arriva prima, il corpo o la mente verbale? La scienza conferma un'intuizione molto più carnale. Il corpo è un fulmine, il pensiero razionale è lento. Amicizio parla del primato del corpo. C'è quell'esempio nel libro della vite caduta che è illuminante. Bellissimo, sì. Ci cade una vitina sotto il divano. È lontanissima, col braccio non ci arriviamo. Ci guardiamo intorno disperati e vediamo sul tavolo una forchetta rimasta dal pranzo. E cosa succede in quel momento? La nostra cultura ci vorrebbe far credere che la nostra mente faccia un calcolo geometrico, giusto? Certo. Osservo la forchetta, calcolo la distanza e deduco che lo strumento A prolunga l'arto B. Ma le neuroscienze ci dicono che questa è una favola che ci raccontiamo dopo, a posteriori. E invece cosa succede davvero? Succede che il sistema motorio ha già risolto il problema molto prima della mente logica. Attraverso i neuroni specchio e quelli canonici facciamo una simulazione immediata e inconscia. Cioè noi ci sentiamo già ad allungare il braccio con in mano la forchetta. Precisamente. La soluzione nasce dalla carne, dall'esplorazione fisica dei dintorni, non dalla logica astratta. Che meraviglia. Ridà una dignità enorme all'intelligenza fisica che spesso, sai, snobbiamo un po'. Assolutamente. Ma aspetta, perché qui il libro va oltre e descrive una cosa quasi fantascientifica. La protesi biologica. Sì, qui entriamo nel regno dei neuroni bimodali e della rimappatura del sé. Spieghiamolo a chi ci ascolta. Noi abbiamo tutti una sorta di bolla invisibile intorno a noi, la nostra area peripersonale. Che è lo spazio vitale immediatamente difendibile. Se uno sconosciuto ti sta troppo attaccato in ascensore. Senti proprio un fastidio fisico, una violazione dello spazio. Esatto. Bene, i neuroni bimodali processano insieme informazioni visive e tattili per mappare costantemente i confini del nostro corpo in questo spazio. E cosa succede quando prendiamo in mano la nostra famosa forchetta con l'intenzione di usarla? Il cervello fa un miracolo plastico, espande all'istante l'area peripersonale per includere lo strumento. Ma, scusa, lo chiedo per chiarezza, non in senso metaforico, vero? No, letteralmente. A livello neurologico, la forchetta cessa di essere metallo estraneo e diventa carne. Integra lo strumento nello schema corporeo. Cioè, quando la punta della forchetta tocca la vite sotto il divano, io non sento solo la pressione del manico sulla mano. Senti la consistenza della vite attraverso lo strumento, come se avessi delle dita lunghe un metro. È pazzesco! È una fusione viscerale tra noi e l'ambiente. E ti dico la verità, questa cosa ribalta completamente quel senso di impotenza di prima, quando parlavamo della città che ci prosciuga. È il messaggio finale di Amico, ed è potentissimo. Non siamo condannati alla prigione degli inviti. Grazie a questa plasticità, possiamo sviluppare quello che lui chiama il biopensiero. L'idea che la nostra pelle non sia un confine chiuso, invalicabile, ma una frontiera mobile. Esatto, ci possiamo espandere, possiamo incorporare pezzi di mondo per risolvere i problemi. La vera creatività è abitare la realtà fisica in questo modo. Prendere un invito ambientale rigido e piegarlo alla nostra libertà personale. Che poi è il succo della citazione finale del libro, no? Sì, me la sono segnata perché racchiude tutto. Siamo nati per hackerare il mondo, non per subirlo. Sintesi perfetta. Dobbiamo smettere di pensarci come recettori passivi e ricordarci che possiamo riscrivere le regole del paesaggio in cui ci muoviamo. E questa consapevolezza restituisce davvero tanto controllo. Però guarda, c'è un tarlo che mi è rimasto in testa e lo voglio condividere con tutti quelli che ci stanno ascoltando. Vai, sono curioso. Abbiamo appena detto che il cervello, tramite neuroni bimodali, può espandere la nostra bolla vitale, no? Fonde un pezzo di metallo con il nostro corpo per compiere un'azione. La forchetta diventa carne. Fin qui ci siamo. Ma allora cosa succede a livello neurologico profondo, al nostro senso di identità, quando lo strumento che stringiamo in mano per ore ogni santo giorno non è una forchetta, ma è uno smartphone? Bel punto. Un dispositivo che è costantemente connesso a un flusso infinito di dati a miliardi di altre menti. Il nostro sistema nervoso, nel suo tentativo disperato di adattamento, sta forse cercando di incorporare l'intera rete internet nella nostra area peripersonale. Sta cercando di processare il web come se fosse un'estensione del proprio corpo. Esattamente. E se davvero è così? Insomma, quanto è diventato grande oggi quel bosco in cui stiamo camminando? Pota.tv.it. Oltre lo specchio, dentro la mente. Scienza, affordance e vita quotidiana con il tuo cane. Scuolaformazionecinofila.it.